Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo l'indirizzo mail unabusoalgiorno@radio24.it. Oggi cominceremo a parlare di un tema molto interessante. Faccio una breve premessa. Molti di voi, cari radioascoltatori, avranno seguito in queste settimane, in questi mesi, le tappe di avvicinamento della comunità internazionale e della nostra nazione, l'Italia, alla Repubblica di San Marino e viceversa. Tappe di avvicinamento che servono per omologare, rendere più uniforme, diciamo così, globale il sistema di comunicazione, di trasparenza in una comunità che diventa sempre più piccola. Oramai, diciamo così, il pianeta si tiene veramente nel click di un mouse. Onore e merito dunque alla Repubblica di San Marino e all'Italia per queste tappe di avvicinamento che dovrebbero portare alla firma di alcuni importanti accordi tra la Repubblica del Titano e la nostra nazione, l'Italia, diciamo a giorni, a settimane. La volontà delle parti è questa. In quest'ambito ci sono state diverse inchieste giornalistiche che hanno messo in evidenza alcuni punti oscuri ancora del rapporto tra due paesi. All'interno di questo magma di informazioni sui rapporti tra i due paesi c'è anche una sentenza direi molto importante, che è stata ribattezzata da alcuni giornali locali di San Marino Licenzopoli. Cercherò di riassumerla in breve e mi scuso già con i miei ospiti, poi sentirete la loro voce, per la fretta, e quindi mi correggeranno se sbaglierò qualcosa. In buona sostanza è una sentenza che manda totalmente assolto da ogni accusa di falso e truffa un ragioniere che operava a San Marino. Non ha truffato gli imprenditori che a lui si sono rivolti per avere una sede nella quale operare nella Repubblica di San Marino. Fatto sta che l'accusa è stata ovviamente smontata, ma la sentenza ha lasciato i suoi segni. Perché? Perché ha messo in evidenza una serie di inefficienze nei controlli da parte di San Marino stesso. San Marino nel 2003 ha votato una legge che, proprio per evitare residenze fittizie, prevedeva una serie di controlli. Ebbene, questa sentenza ha evidenziato che i controlli non è che poi fossero così stringenti, i buchi della telematica erano numerosi, moltissimo si ricorreva alla memoria dei dipendenti. Insomma, una situazione un po' paradossale. Il tema è scottante e noi per questo abbiamo chiamato a interloquire con noi per primo chi? Ma il segretario di Stato all'Industria della Repubblica, appunto, di San Marino, Marco Arzilli, che saluto e ringrazio per il suo intervento. Buongiorno Arzilli. Buongiorno Sor Galullo, buongiorno. Allora, io intanto nel mio blog che si chiama Guardi o Ladri, quindi chiunque potrà andare a leggere i miei articoli, l'ho definita Arzillo, che a me sembrava un complimento. Mi dica che non si offende se la definisco Arzillo. No, guardi, io non mi offendo assolutamente. Io benissimo. Devo solo rappresentare il mio paese nel migliore dei modi. Benissimo, però, benissimo. Allora, sui fatti. Benissimo, mi corregga nella mia ricostruzione. Cosa ho sbagliato nel ricostruire la sentenza? Ma velocemente, intanto non si parla di residenze, perché poi si confonde con la residenza delle persone, ma si tratta di sedi di società. Certamente, certo. Dunque era controllo sull'effettiva presenza o meno di queste sedi di società, o che ci fossero meno altre società che occupavano lo stesso numero civico, diciamo così. È difficile, ovviamente la sentenza mette in mostra alcune questioni che sono state oggetto, insomma, della mia segreteria, che ha 8 mesi, 9 mesi, insomma, circa, per intervenire su un fatto che è successo qualche anno fa, ma che comunque la sentenza che è uscita quest'anno ha messo in luce che c'erano delle funzioni che andavano sistemate. Ecco, io quindi direi di mettere un punto fisso. Queste lacune, mi pare, mi correggo ovviamente se sbaglio, che lei le riconosce, così come io riconosco e ho riconosciuto ovviamente anche nei miei servizi che voi siete prontamente intervenuti. È così, giusto? Sì, ecco, le lacune erano effettivamente già evidenti indipendentemente da, perché quando ci siamo insediati abbiamo trovato questa situazione che gli stessi funzionari denunciavano di difficoltà applicativa, di tantissime leggi che ci sono in questo paese che seppur piccolo ha questo vizio. Ecco, ora voi avete insediato una commissione di inchiesta per andare a vedere quali sono le falle, o meglio, molte di queste falle sono state appunto evidenziate dalla sentenza, ma adesso sta a voi porre dei rimedi, porre dei ripari. Non dimentichiamo che voi stessi avete anche denunciato penalmente, credo, per omissioni di atti d'ufficio alcuni dei dipendenti o dei dirigenti della vostra Repubblica, se non sbaglio, ecco, mi corregga ovviamente se sbaglio. Allora a questo punto quali sono i ripari e i rimedi a cui state pensando? Allora, intanto una precisazione, prego. La giustizia qui, come deve essere da tutte le parti, segue il suo corso. Io sono per la separazione dei poteri, che se a volte sembra un'utopia, forse ci capiamo forse bene, no, su queste cose, anche certo, con l'Italia. Certo. Credo che ognuno deve fare il suo lavoro. La giustizia ha preferito, giustamente, il giudice ha aperto un fascicolo contro ignoti, perché esatto, responsabilità erano tante, per andare a verificare se effettivamente questi abusi c'erano o non c'erano. Ecco, però voi state portando avanti... Il procedimento è ancora in corso, dunque ecco, non intervengo sulla materia, però... Però voi avete una commissione d'inchiesta, quindi parallelamente state svolgendo il vostro ruolo. Perfetto, io ho deciso di intervenire su tre linee. Il primo è cercare di mettere ordine momentaneamente con da noi si chiama delibere di congresso di Stato interpretative, per andare a dire come deve funzionare la legge. Perché sa, se uno dice bisogna andare a destra, uno dice bisogna andare a sinistra, ma bisogna salire le scale, ovviamente nessuno arriverà mai all'obiettivo. Noi abbiamo dato un'interpretazione che sta funzionando, perché oggi sono state, grazie a questo, sospese oltre 60 attività su centinaia di controlli. Ecco, quindi avete avviato già dei controlli, perché voi stessi richiamate l'esigenza di mettere in campo proprio i vostri sistemi di ispezione. Assolutamente sì, questo governo vuole la trasparenza, la prima cosa, al suo interno, perché se noi siamo trasparenti al nostro interno saremo un paese molto meglio presentabile fuori di qui, non solo con l'Italia, dico io, insomma, con quale certo, c'è un rapporto d'amicizia che certo, deve ritornare fuori prima o poi, perché c'è un'amicizia storica. E poi abbiamo deciso l'intervento di tipo normativo, che è quello di andare a riscrivere una legge sulle licenze, dunque una legge che riguarda proprio questo tipo di settore, di cui la bozza è già pronta e forse verosimilmente a ottobre la prepareremo, ecco, che comunque va a normare quello che noi oggi abbiamo interpretato, per intenderci, non so se mi sono spiegato. Certo, dunque, no, ma normando se... questo. E l'ultima linea di intervento, così concludo, è quella di andare a dire, però qui bisogna andare, che ci sia una commissione d'inchiesta amministrativa, dunque legata alla pubblica amministrazione, per vedere se ci sono delle responsabilità o meno da parte dei soggetti pubblici, o venga fuori che magari il problema viene proprio dal privato o dal professionista. Certamente. Allora, in questa sentenza si dice che i controlli erano di fatto, anche se presenti di diritto, ma di fatto inefficace. Questo è un pochettino quello che mette in luce. Io, usando un tema forte, un paradosso, scrivevo nel mio blog che l'assenza di questi controlli, o comunque pochi controlli effettuati, potevano permettere paradossalmente ad un fattoccio, ad una testa di legno di un criminale, citavo Matteo Messina Denaro, di insediarsi a San Marino avendo una sede intestata ad un prestanome e quindi farla franca per operazioni che poi potevano essere le più varie, lecite o anche invece illecite. Ecco, questo paradosso coglie nel segno, è esagerato, poteva essere così? Lo commenti, Arzilli? Sì, se mi permette faccio una premessa, che sappiamo bene che chi vuole delinquere trova sempre l'infa in ogni paese dove va, certo, purtroppo, certo, e le falle ci sono ovunque. Da noi c'è un sistema comunque già di filtro iniziale, perché da noi chi fa una società deve presentare un certificato penale, un certificato di mai avvenuto fallimento, un certificato penale italiano. Ecco, ma un prestanome lo fa facilmente questo, no? Un prestanome è pulito, questo lo fa facilmente, però ecco, anche le quote societarie devono essere legate a questo tipo di documentazione. Dunque, questo è un primo filtro che, ad esempio, è una cosa che da noi sta già dando dei risultati molto buoni. La seconda questione è sui controlli. È ovvio che, come in tutte le cose, quando le dimensioni aumentano del sistema economico, quando si parla, no, di liberalizzazione, che è una parola che anche va molto in rima con la globalizzazione, mi permette l'assonanza, se non ci sono dei controlli che crescono a ugual misura, poi si va fuori controllo. E noi siamo andati fuori controllo, dunque chi doveva controllare, non solo non c'erano strumenti informatici, che visto che anche questo giustamente ho detto, ma l'informatizzazione vuol dire incrociare i dati. che sarebbe la cosa più semplice, perché forse si ragionava molto con parti stagni, oggi questo non deve più essere, ma in più c'era una sottovalutazione del problema che oggi non ci possiamo più permettere, ma non perché ce lo dice l'Italia, se mi posso permettere, assolutamente, ma proprio perché certo. È un'esigenza mia, di questo governo, ma anche di chi come me ha fatto una scommessa con se stesso, cioè o si cambia o altrimenti è inutile che stia qui certo. A lavorare. I giornalisti servono soltanto per essere uno strumento di, come dire, di critica intelligente e motivata, non certamente per sputare sentenze, il compito è di altri. Allora io per il momento ringrazio il segretario di Stato all'industria della Repubblica San Marino, Marco Arzilli, ma domani riprendiamo con lui la discussione per avere poi altri ospiti, quindi dico grazie in regia a Carmelo Lauricella e in studio Laura Faggini, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani ancora con il segretario di Stato Marco Arzilli.